Cosa le è successo di preciso, signore? Luis, metti in moto, cazzo, dai! Santo cielo, Vin, è una donna che hai ammazzato, ti rendi conto? Lo sai cosa sei, Luis? Uno sporco maschio sciovinista di merda. Però fammi capire, perché sarei un maschio sciovinista? Sei tu che hai steso una femmina? Un poliziotto. Ho steso un poliziotto. Quelle vogliono l'uguaglianza. E io gliel'ho data. Fuoco alle polveri. Go Hal Paul Berry Radio Bomba. E buonasera e benvenuti alla 46esima puntata di Fuoco alle Polveri. Senti che voce maledetta che ho. Levami game immediatamente. Bravi, bravissimi. Succede. Ciao Bracco. Tuco, ciao, buonasera. Ciao Bracco. Mi si sente? Ti si sente? Sì. Direi di sì. Invece io non mi sento bene, ma nel senso proprio che fisicamente non sto Non ti senti bene? No. Vabbè, è arrivato l'inverno. Cioè, anzi no, non è ancora arrivato l'inverno, però è arrivato il ghiaccio. Ecco. Ha fatto tempo a far ammalare la gente. E andò via. E andò via perché oggi ci sono 17 gradi, fa un caldo becco. Ma non ci qui, sta bene ma anche... non qui. No dai, su, rispetto a settimana scorsa non ci possiamo lamentare. Centauri. Centauri. Oh, ma se si parla di tempo siamo proprio... Alla frutta. No dai, non è vero, non si parla del tempo. Non solo, quantomeno. Allora, senti, 46 come cosa? 46 come il palladio? No, dai. Come il numero atomico del palladio? Il numero atomico del palladio. Allora, 46... Basta, atomici. Basta. Anche perché poi la sigla del palladio... Hanno rotto il palladio, basta. Ecco. Brutta, malissimo. Malissimo. Senti, allora, un'informazione utilissima. Ecco, un'informazione dai, utilissima. Nel 46 avanti Cristo la Dobrugia entra a far parte della Mesia Romana. Ah, sapevi? Ma pensa! Lo so, me l'hanno chiesto ieri al supermercato. Contestualizza. Non ho saputo rispondere. Please. Nozioni è un po' sulla Falsariga. Sulla falsariga di nozioni inutili che oggi è qui con noi. Dovremmo avere pazienza. Sì. E insomma, un sacco di cose succederanno oggi. Un sacco di cose succederanno oggi, un sacco di cose sono successe in questi giorni, in questi sette giorni che non ci siamo sentiti, ragazzi, cioè, cose belle, brutte. Io sono stato malato. Sì, sei stato malato. Anch'io, mettiamola così. Il mondo ha continuato a esserci. Abbiamo visto manifestazioni, cortei, falsi antifascisti. Veri fascisti. Contestazioni accesissime in Honduras. Insomma, poi ci sarà modo di accennare e dare un sacco di spunti senza approfondire. Non niente, ma qualcosa, ma non si può tutto. Non si può approfondire. Anche tutto. Perché chi siamo noi? No, devo dire ovviamente fuoco alle polveri per la precisione. Fuoco alle polveri. Qui su Radio Wombat 16:30 come ogni lunedì. Ma noi sappiamo, i nostri ascoltatori stanno qui con noi ad ascoltarci. Allora, senti, cosa ci racconti Dimmi. Oggi, Bracco? Ma, senti, no, abbiamo portato un contributo che abbiamo estratto qualche settimana fa dall'incontro a Mondeggi, di nuovo. Alla famosa due giorni. A riborda, cioè, ve lo rispondo. Però avevamo detto che di aver fatto un sacco di interviste, un sacco di approfondimenti molto interessanti. Esatto. In parte sono stati già, alcuni sono già stati caricati sulla pagina Wombat, un'intervista. Ricordiamo il sito, tanto ci state ascoltando da lì, ma... sai mai wombat.noblog.org mentre la nostra mail la ricordiamo sempre posta wombat@insiberia.net. Appunto, sono già stati caricati due interviste, una ai giovani Notav che fra l'altro sono stati hanno avuto un'iniziativa nello scorso fine settimana, venerdì, sabato e domenica, avevano tutta una serie di, esatto, di manifestazioni con cene, la ripulitura dei sentieri, perché appunto la Val di Susa, come ci raccontano nell'intervista, è stata devastata da degli incendi. Era ottobre forse, penso, e quindi il comitato NOTAV si sta impegnando per la ripulitura del territorio e la rimessa in uso dei sentieri, e in tutto questo naturalmente sono andati a ripulire sentieri vicino al cantiere, al nuovo cantiere, e esatto, con delle conseguenze che ci raccontavano, sono proseguite, esatto, le contestazioni anche. Cantiere di cui ci parlavano nella diretta che abbiamo fatto per la manifestazione in Val di Susa, no? Vi ricordate? E ci raccontavano proprio di questo nuovo cantiere arroccato. Esattamente, arroccato e difendibile. Sono state fermate 3 persone. Sì, più che fermate, proprio arrestate. Arrestate 3 persone. Sì. Sono fermate inteso come stato di fermo. Noi ribadiamo piena solidarietà. Libere e liberi tutte e tutti. Ricordiamo i nomi dei compagni fermati, che sono Ilaria, dobbiamo leggerli. No, esatto. Eccoli qua, sono un 25enne, Umberto Raviola, Umberto, una ragazza di 27 anni, Alice Scavone, e Cesare di 25 anni, da Pisa, pare. Penso. Wombat solidarietà assoluta. Esatto, quindi cioè, questo contributo troverete nella categoria speciali del sito Wombat. Scusa, due torinesi e un pisano. E un'intervista invece a un collettivo che è Gruppa, che è Gruppo Permanentemente Aperto, che è un collettivo che si occupa di salute globale. E molto interessante, andatevi a sentire. E poi piano piano troverete anche tutte le altre. Una ve la spariamo oggi. E tratta di estrattivismo fondamentalmente, perché durante la 2 giorni di Mondeggi è stato presentato un documentario e un'inchiesta di Recommon relativa appunto al Messico, e il tema è l'estrattivismo, però direi che ve lo spiega meglio Pippo. Eh sì. Ok, quindi io proporrei un pezzo per staccare un attimino e poi partiamo subito con la registrazione dell'intervista. Ottimo piano. Dai. Allora, cosa ci proponi? Vi farò ascoltare un pezzo di un album che non è mai stato pubblicato ufficialmente, del 2000, un gran pezzo hip hop. Alle basi c'è Ice One, che è, insomma, pietra miliare dell'hip hop italiano, come MC Malaisa, Catarsi in microcosmi. Wombat. Quello dell'uomo, però, è uno spirito intelligente, perché l'uomo sovrasta ed è in grado, per quanto lo riguarda, di regolare, se non di dominare, gli istinti che sospingono incessantemente tutto ciò che esiste e si forma. Ammesso che la genialità faccia ancora parte dell'istinto, i prodotti della genialità appartengono invece a quella libertà di creare, che è prerogativa dello spirito intelligente dell'uomo, quindi ben oltre l'istinto stesso. Il fatto di rimanere in essere si richiama al motivo e quindi alla funzione di ogni cosa esistente, in perenne sollecitazione e travaglio, proprio come si addice al moto creativo che non saprebbe estinguersi e nel quale ogni cosa concorre armonicamente, anche nelle mutazioni varie. Sfondare il limite che mi circonda con la mente. Segue la poetica dinamica specifica in metamorfosi di liriche. L'insegnamento implicito in ogni cosa della vita. Regola prima che ho imparato. La prima impressione, l'ultima impressione. Dentro me è l'epicentro della scossa che mi ha mosso. Come fuoco che alimenta questo spirito eruento. Ormai da tanto tento di tenermi a bada ragionando. Ma ragione e sentimento insieme stanno già lottando. Violento scontro tra diversi mondi da cui dipende il mio equilibrio più profondo. Da questo punto parte il defluire nel racconto. Superwoman delle rime, posso trasportarti ore come tu sai. Non ti può fare con una piuma. L'essere misogeno è l'oggetto del mio flow, una piaga. Ammiro l'uomo che mi sfida e godo di un piacere innato quando scopro l'eterno impulso femminile e il senso di materno. Seguo con le mani le mie forme. Questo corpo pulsa di una vita intermensa. Sfondare il limite che mi circonda con la mente. Sarà la mia costante l'intenzione verso l'universo. Messaggi come in alfabeto morse. Leggi tra le righe, leggi di Tornado Isa. Sto diventando grande, questo è bello perché so che nulla cambia. Nell'interlembio circostante la mia mente, precisa nel mio movimento, resto tale quale a quando ero bambina. Quell'istinto naturale a togliermi le scarpe e camminare scalza. Fermarmi solo per alzare il viso ed annusare l'aria. Amo sempre più profondamente la conquista e mi alpisco davanti a donne predisposte a regalarsi. È una farsa che non mi concerne, non ti aspettare una reazione. Imparato a stare calma, non è di mio rapportarmi con chi scema. L'essere femminile con il fare da puttana. Seguo con le mani le mie forme. Questo corpo pulsa di una vitalità immensa. Sfondare il limite che mi circonda con la mente. Se ti racconto come a mio parere sia giusto opporsi, pensi forse che nego la mia femminilità, sbagli. È qualità che innalzo al massimo livello di potenza. Non ho abbastanza di sentirmi dire cosa posso fare. Faccio tutto, ho fatto anche un patto con me stessa. Sta sempre il tuo essere. E se cambiassero le cose accetterei i commenti. Ma Isa sa che cosa sta facendo. Tu puoi soltanto dirmi se ti piace o meno. Io voglio più money. Non ci sento con nessuno. Poi vedrai come ritorno in scena. Tra quelle female MCs che esprimo nel rima. Si muoverà in silenzio questa hermana. Ti porterò il mio suono e tutto il suono. Il contenuto umano. Seguo con le mani le mie forme. Questo corpo pulsa di una vitalità immensa. Sfondare il limite che mi circonda con la mente. Sarà la mia costante attenzione verso l'universo. Ci attende da me la rivelazione di formule, di procedimenti, di conoscenze che proprio non possiedo. Sono segreti questi che non è dato di tramandare, appunto perché segreti non lo sono affatto. Si possono invece intuire come è successo a me e ad altri. Questa forma di rivelazione è profonda ed artistica, tale appunto da escludere per la sua natura qualsiasi speculazione. Siamo qui con Pippo, un compagno di Genuino Clandestino e autore insieme a Wolf Bukowski di uno dei racconti che sono stati presentati in introduzione a Il Saccheggio, un film documentario che è stato presentato nella giornata di sabato in questi due giorni a Mondeggi. Il sottotitolo è Racconti dal Chiapas e dal Mondo, passando per i banchi della Buona Scuola. Allora, ciao Pippo, intanto benvenuto. Buonasera a tutti e a tutti. Dici intanto di cosa si tratta, cos'è il saccheggio, di cosa hai scritto e che cosa è stato presentato a Mondeggi. Sì, il saccheggio esce anche con il documentario di Néstor Abel Jiménez, che si intitola Il segreto della bellezza, Pueblos en defensa de la tierra. E invece all'interno del saccheggio c'è una parte introduttiva in cui il collettivo di Recommon prova a delineare un po' tutti i percorsi comuni dell'estrattivismo in diverse comunità del mondo, per provare a far capire che comunque in fondo c'è un disegno comune in questo strumento che si usa di saccheggiare appunto scientificamente tutti i territori ricchi di questo pianeta fino all'ultima goccia. E poi c'è questo raccontino che abbiamo scritto io, ma in realtà più Wolf Bukowski che io, abbiamo curato una parte più narrativa in cui si parla di questa storia di questo ragazzo che deve per legge fare l'alternanza scuola-lavoro e si trova a lavorare alla comunicazione social di una multinazionale che estrae dai territori, ma il ragazzo viene preso a lavorare nella parte di comunicazione dei loro progetti sociali con i quali aiutano le comunità. Quindi si prova a smontare tutta questa cosa attraverso altri personaggi e ogni parte del testo viene utilizzata per dare dei momenti di riflessione che poi si prova a spiegare semplicemente in delle finestrelle in cui sono spiegati un po' degli appunti sul Messico di oggi, in modo che possa essere un'introduzione per chi si affaccia per la prima volta a parlare di Messico. E poi c'è un contributo finale di Aldo Zanchetta, che è una persona molto importante, io credo in Italia, ma in realtà per Recommon, perché ne è stato il presidente per anni, è quello che ha condotto Recommon a queste riflessioni sull'estrattivismo per la prima volta. E essendo un po' anziano, si può dire, non si offenderà, fa una panoramica dell'estrattivismo dalla finestra di casa sua, quindi ricontestualizza sul contesto italiano, in particolare lucchese, perché di Lucca, tutto quello che si può vedere solamente girando gli occhi alla finestra di casa. Abbiamo introdotto praticamente tutti i temi che ci interessano. Sì, magari ci puoi dire un attimo il Recommon, di cosa si occupa nello specifico e anche un po' la storia, come è nato e diamo anche qualche obiettivi. Riferimento da subito, magari li ripetiamo, sì. Dove trovare quello di cui ci stai parlando. Recommon è un collettivo che è stato creato in forma di collettivo dal 2012. Dal punto di vista legale, ovviamente è un'associazione di promozione sociale e si occupa soprattutto di inchieste su grandi multinazionali, grosse infrastrutture o grosse dighe o miniere, tutte queste facce dell'estrattivismo, diciamo. E poi ha un altro ruolo più istituzionale, lavora con il piccolo azionariato di queste aziende, riuscendo a parlare nei consigli di amministrazione e riesce a portare le storie delle comunità anche per le basi dell'azionismo di queste grandi, e in questo modo prova a smuovere un po' la situazione. Loro si gestiscono tutta la scrittura delle investigazioni in collettivo, e quindi sono tutte praticamente coscritture, compresa l'introduzione del saccheggio. Il riferimento è recommon.org, dove si trovano tutte le inchieste che sono uscite dal 2012 a oggi. Ci sono numerosi spunti video, perché si documenta la maggior parte dei casi quello che succede. Penso che questo, infatti, c'è la pagina Facebook per chi è legato più a Facebook. Purtroppo il documentario in questa prima fase non crediamo che sarà subito online, anche se comunque è Creative Commons, quindi prima o poi ci andrà, però anche per garantire a Nestor la possibilità di gestirlo come vuole nella prima fase, festival, queste cose, perché noi pensiamo sia stato ben fatto, abbia fatto un ottimo lavoro. Quindi, cioè, ricapitolando, è un collettivo italiano, tra virgolette, che però si reca in alcuni luoghi all'estero, dove avviene il fenomeno dell'astrattivismo, se ho capito bene, giusto? Sì, è un collettivo italiano che viene da un lavoro precedente negli anni passati con un altro nome, si chiamavano Campagna per la Riforma della Banca Mondiale. Alcuni di loro hanno fatto parte anche del primo percorso e questo lavoro di inchiesta è sostanziale, diciamo, anche il lavoro più istituzionale che si fa. Cioè, normalmente devi andare in comunità, devi lavorare con la comunità, devi supportare la comunità, però non si fa, ecco, in chiave assistenzialista, quindi non si creano dei progetti per aiutare le comunità se le comunità non ne hanno necessità, però se loro hanno necessità di informare o di far sapere questa cosa al nord o all'occidente, o come lo vogliamo chiamare, che è dove questi progetti partono, si costruisce una relazione in modo che questi racconti escano fuori o con documentari o con scritti, in modo tale da esercitare in Europa, in Italia quando possibile, perché è un po' più complicato, per informare su queste dinamiche e su questi progetti. Bene, andiamo magari infatti su una parola che oggi è ritornata continuamente, è spesso presente anche nei vostri documenti, sul sito, nelle copertine dei libri: l'estrattivismo e le società estrattive, di cui avete parlato sia nell'introduzione sia adesso, te ci hai accennato già nella prima domanda. Di cosa si parla quando si usano queste definizioni? Sì, in realtà c'è tutta una scuola di pensiero che in Sud America è già molto sviluppata, che usa questa parola estrattivismo, che in Europa probabilmente non è stata usata perché si confondeva con l'estrazione primaria, eccetera eccetera, e quindi questa cosa richiamava vabbè, ma è la stessa cosa che è sempre successa, non vediamo dove sia la novità. E quindi nel cercare la parola vincente, che è un classico dei movimenti, allora questa veniva scartata. In realtà in Sud America questa parola è chiave, perché l'estrattivismo non è solamente estrarre attraverso delle materie prime, attraverso una miniera o un progetto X che si impone alla popolazione. L'estrattivismo ha un doppio binario, cioè tu estrai quelle ricchezze ma militarizzi il territorio, crei delle leggi per cui quell'estrazione, che prima era illegale, diventa legale, e crei un sistema di promesse che altera il sistema sociale in atto, quindi estrai i legami sociali e comunitari che prima c'erano, con la promessa di, come per le comunità che abbiamo visto nel documentario, di fondi o dell'assegno lavoro, familiare o di lavoro, però proponendo un modo, uno stile di vita che è più nostro che loro, e quindi nel loro caso questa cosa è evidente, nel nostro caso invece è passata in sordina e ha cambiato molto il tessuto sociale. Ma infatti, vedendo da una finestra di casa nostra, da una finestra lucchese, per cogliere il tuo esempio, cosa si vede? Cosa? Beh, una delle chiavi di lettura che si vede e che si può anche leggere nell'introduzione del libro, che si può percepire anche andando a vivere delle lotte comunitarie in questo momento in Latin America, che sono molto più forti rispetto a altri posti, è che in alcuni casi, anche se lo dico già è una forzatura, però in alcuni casi ti sembra che il legame comunitario, cioè il legame di relazioni, ci sarebbe stato comunque nonostante la grande opera. Il problema che invece noi viviamo è che spesso è la grande opera che nei casi migliori riesce a creare un legame comunitario, che quindi è un percorso inverso che per noi è più faticoso, perché noi dobbiamo ricostruire tutto un tessuto, io non lo definirei più sociale, ma proprio di legame interpersonale, che ci è stato alterato, ci è stato alterato da un sistema di vita che non era, che non è umanissimo proprio. E che c'è stato, c'è arrivato dall'alto, in un certo senso c'è stato imposto. C'è stato imposto, ma in alcuni casi in maniera molto abbellita, perché il cellulare e la macchina figa all'inizio non sembra che te fanno spendere più benzina e più soldi di scheda telefonica. Cioè, Esatto, magari appunto l'estrattivismo in un paese latinoamericano ha degli effetti più diretti e più tangibili, e anche magari anche più comprensibili rispetto a un estrattivismo da noi. Io ho sentito parlare appunto riguardo a Firenze dell'estrattivismo relativo ai beni pubblici, ai beni proprio architettonici della città di Firenze, dei parchi e di questa cosa qua. Tendenzialmente, però, a quanto dici te, si tratta fondamentalmente dello stesso meccanismo? Beh, quello che mi pare di constatare, anche per quello che si diceva prima su questo progetto delle zone economiche speciali, è che questa fase del capitalismo è pronta a prendere tutto. Quindi se in Toscana c'è più cose che puoi usare per il turismo, quindi privatizza una villa per farci una sala mostre privata, piuttosto che un parco pubblico per farci dei campetti sportivi, no, questo è più un esempio romano, però se sei in Basilicata e c'è il petrolio, gli prendi il petrolio, cioè quello che c'è prendo, perché secondo me al momento attuale è una macchina senza controllo che sta andando a forte velocità contro un muro. Il capitalismo non è niente di meno sofisticato. Sembra essere anche più pervicace rispetto ai semplici beni architettonici o immobili, voglio dire. Prima si parlava nell'introduzione anche di come addirittura l'ENI o comunque grandi aziende o multinazionali incentivino tramite accordi con regione un certo tipo di turismo. L'esempio è quello della Basilicata, per esempio, dove si fa appunto estrazione in Italia. Sì, questa cosa è molto forte, è anche un segno del fatto che stiamo parlando della stessa cosa, perché l'Enel, quando doveva costruire le dighe in Patagonia, andava casa per casa e offriva borse studio e zainetti a quelli che non si potevano pagare lo studio. Il fatto che lo facciano in una borgata di periferia romana non mi stupisce per niente, perché il livello di impoverimento e il livello di silenzio a fronte di un regalo in questo momento è parificabile dopo la crisi economica, perché è una crisi da gestire senza più, in alcuni casi, soprattutto nelle periferie, i legami di famiglia che di solito al sud riuscivano a creare una specie di welfare che faceva in modo che il peso della crisi non si sentisse. Quando nelle grandi città questa parte viene meno, diciamo, per usare il termine Zibeghi, che è uno di queste persone che ha approfondito, di questi studiosi che ha approfondito il tema dell'estrattivismo, è semplicemente quel passaggio dal mondo dell'essere al mondo del non essere, cioè quando la tua vita perde dignità e perde valore. In quel passaggio, quando tu arrivi al non essere, ovvero le comunità indigene sono un esempio, loro per il Messico semplicemente non esistono, sono meno di un essere umano, allora è in quel momento che tu trovi il legame tra pari e l'organizzazione per resistere e per reagire con... Perché loro reagiscono, cioè la differenza è che loro non è che fanno la marcia solo, la marcia di protesta dicendo questa cosa è una cosa cattiva. Loro si organizzano, e organizzazione significa prevedere dal cibo alla logistica a dei modi creativi per reagire, per attaccare questa cosa, nonostante numericamente sono molto inferiori, no? E questo secondo te ciò che va fatto in fondo? Cioè, questa è la risposta al problema che si pone, ripartire dalla comunità di base, sia essa famiglia, allargando il senso di famiglia, oppure comunità in senso quotidiano, e quindi reagire e organizzarsi per rivoltarsi, rilanciare. Beh, sicuramente ricostruire una quotidianità di relazioni e di legami ti aiuta una volta che c'è un progetto che sta minando la tua quotidianità a non dover convincere nessuno a partecipare, perché quella è la tua quotidianità, è la tua vita. E loro spesso dicono: noi non stiamo combattendo contro i multinazionali, noi stiamo difendendo la nostra vita, perché se loro non valutano la nostra vita come se fosse una vita, quindi non rispettano la nostra dignità, allora noi ci dobbiamo difendere. E questa cosa da noi, secondo me, non passa, perché ancora abbiamo tante barriere che ci fanno sentire che stiamo bene. Ma se tu guardi solamente l'utilizzo di psicofarmaci in questo paese, cioè, dire che stiamo bene. Sì. Siamo in un certo senso assuefatti dal sistema nei confronti. Abbiamo avuto tanti anni in cui avevamo la rincorsa, aiutati dalle banche che davano i prestiti a comprare per acquisire chissà quale status sociale. Io almeno vengo da una famiglia del sud che doveva avere una serie di tappe che doveva raggiungere per dire: io c'ho questo. E questa cosa ha portato molte famiglie del sud a diventare delle piccole argentine pronte per lo scoppio di queste bolle speculative da promessa. No, giusto per dare uno spunto di lettura di un libro che mi ha fatto pensare molto e che mi è venuto in mente oggi guardando quel documentario sul Chiapas, quello di Naomi Klein, che in lingua originale si chiama Capitalism versus Climate Change e in italiano si chiama Una rivoluzione ci salverà. E la cosa che mi è piaciuta di quel libro è che lei dà una panoramica generale sugli abusi che vengono fatti all'ambiente e su invece le azioni di successo che hanno luogo e continuano ad avere luogo in tutto il mondo. E quindi ha carattere antologico questo libro, però non lascia l'amaro in bocca, perché lei vede la più grande speranza dell'umanità proprio nei popoli originari, perché questi popoli hanno per cultura, tradizione, millenaria, eccetera, non solo l'autodeterminazione e la decisione collettiva, però anche l'istintivo attaccamento alla natura che dovremmo avere anche noi e che c'è stato in qualche modo sradicato in maniera meccanica, perché in realtà, cioè, anche nel documentario si dice: noi siamo la natura, ci rivediamo nella parola della montagna, eccetera, e anche noi ci rivediamo in queste cose, forse ce le siamo dimenticate, non lo so. Però insomma, in quel libro lì, per esempio, si vede una luce in fondo al tunnel in questi popoli originari. Però anche noi siamo popoli originari in un certo senso, cioè, voglio dire, anche noi siamo nati qui e forse insomma questo. Sì, no, è un ottimo spunto. Io però mi sento un attimo di umanizzare gli indigeni, cioè gli indigeni sono pure persone normali, quindi. Noi, almeno in questo viaggio che abbiamo fatto col Neto, che non è viaggio proprio fisico solamente, ma questi mesi che abbiamo fatto in preparazione del documentario, questi mesi che ho passato in Chiapas, in realtà tante dinamiche, tante promesse e tante comunità sono state, anche se sono gialli perché sono indigeni, però sono stati contaminati da questo modello di vita. Quindi io non darei troppa importanza alla loro origine, ma come alcuni sono riusciti a organizzarsi nel tutelare e nel recuperare, perché vi assicuro che in Messico con la rivoluzione verde, che è stata la rivoluzione che ha importato tutti i pesticidi della Monsanto, quindi ha cambiato tutto il lavoro nel loro sistema tradizionale di coltivazione del mais, con tutto il percorso che in Messico hanno chiamato meticciato, che è stato un nazionalismo che ha creato questa persona, il vero messicano, che era il meticcio, che quindi era mezzo cioè viveva come ispanico spagnolo, però era un po' più ambrato, ci hanno creato proprio un super io inesistente, e quindi molte comunità non hanno più la tradizione della lingua, non hanno la tradizione dei lavori collettivi, ma l'hanno recuperata con tutta l'onda lunga delle lotte degli anni 70, quindi è tutto un percorso che si è ricreato dove non c'era quasi più, soprattutto per quelle riguardo il Messico. Poi in Latin America ogni paese fa storia a sé, anche in Messico i 32 stati fanno, certo, 32 storie a sé. Però la spunto, dato che stiamo dando i consigli per gli acquisti, secondo me che andrebbero recuperati, non so come, però sicuramente li troverete, sono questi due volumetti piccoli che hanno un sacco di luci in fondo al tunnel, perché una sola luce non porta mai bene, e che sono questi Raul Zibeki. Uno si intitola Territori in Resistenza, che è quello più facilmente reperibile, e l'altro si intitola L'Alba di Mondi Altri, è stato pubblicato a Lucca da una piccola casa editrice. E poi, però purtroppo non mi ricordo il titolo, ma su internet lo trovate, c'è questa ricercatrice che sta in un'università nordamericana abbastanza famosa, che non mi sovviene, che però si chiama Saskia Sassen, che è la prima che dà veramente i dati, scientificamente i dati del passaggio di quello che Zibeki ci dice, passaggio dall'essere al non essere o dal non essere all'essere, cioè come si passa, come diventi insignificante per questo sistema. E secondo me sono chiavi di lettura che ancora in Italia purtroppo non sono tanto diffuse, perché Saskia Sassen ha avuto la pubblicazione del libro in Italia da pochissimo, e Zibeki, perché è iper popolare in Latin America, è stato solo due volte in Italia, probabilmente tornerà, non anticipiamo niente. E ci sono sul sito di Recommon, così per ricordarlo, recommon.org, c'è un progetto specifico che vi consiglio di consultare, che si chiama che è un progetto sulla Colombia, sull'estrattivismo in Colombia, dove ci sono dei pezzi molto interessanti di analisi di Zibeki, ma soprattutto tutta l'analisi del sistema estrattivismo è molto interessante, è declinata territorialmente con tutti i personaggi, e soprattutto crea un legame diretto con l'Italia, perché con questa campagna, con questo documentario, si è riusciti a far disinvestire l'Enel, che prima comprava il carbone da quelle miniere in Colombia, dove sistematicamente i capi dei sindacati dei minatori venivano uccisi dai paramilitari ogni volta, e diventavano capi praticamente, per riassumerla molto. C'è il documentario anche lì, lo potete scaricare liberamente. Bene. Infatti davvero recommon.org, lo ripetiamo, e ringraziamo davvero Pippo intanto per questo contributo. Grazie a voi, grazie, a grazie mille, a presto. Det bur et bergtroll ut i fosen et sted. Hans navn kjenner ingen, han nøye med det. Han var så forelsket i ei fager meg. Jeg ser jo ikke navnet mitt, for da kan jeg dø. Hei, hei, hus, kom i hei. Snart. Allora, caro Duco. Che storia. Grazie per questo. Che ingresso bello. Bello questo ingresso. Che storia, ragazzi. Evocativo. Allora, avete appena sentito appunto l'intervista a Recommon, Pippo. Pippo. Salutiamolo, ciao Pippo. Ciao Pippo. Chissà se ci ascolta, se ci ascolta. Sicuramente mai. Lo ringraziamo insomma per averci raccontato appunto il suo punto di vista, il punto di vista proprio delle loro azioni, insomma. Sì, sì, lo ringraziamo. Ricordiamo i contatti, che sono appunto recommon.org. Se volete vedere, c'hanno tutte le loro inchieste, sono sul, su questo sito. E se volete scriverli invece, buchineri@inventati.org. Citati anche alcuni documentari, se non sbaglio. Sì, ha citato un documentario, in verità appunto ne presentavano uno, e ha citato appunto questa inchiesta sulla Colombia, sull'estrazione del carbone in Colombia, che si chiama, lui non se lo ricordava, ma si chiama Profondo Nero. Ok. Tutto lo trovate naturalmente scaricabile, è tutto disponibile gratuitamente. Gratuitamente, ci sono i documentari, veramente tantissime cose. Senti, avevi un contributo, una lettura? Sì, allora appunto, poi io mi sono andato a ricercare questi testi di cui lui parlava, di Raul Zibeki tendenzialmente, che è uno... ha scritto, lui ha citato un paio di libri, L'alba di Mondi Altri, che è edito da una casa editrice lucchese, e Territori e Resistenza, e io mi aveva parlato anche di un altro che si chiama La nuova corsa all'oro, sempre di Raul Zibeki, e vi avevo portato una piccola introduzione da leggervi. Molto interessante. L'estrattivismo, che ha avuto in America Latina le sue espressioni più esasperate, è stato messo sotto accusa, dapprima come fattore di distruzione della natura e poi come modello economico di rapina e di esclusione sociale. Dopo aver sviluppato queste due tesi, che indubbiamente evidenziano aspetti reali, Zibeki ha spinto la sua analisi ancora più in profondità, individuando nell'estrattivismo una cultura che ha messo al centro la rapina, le rapine da un lato, il consumismo e l'ostentazione dall'altro, disgregando in tal modo il tessuto della società. Questo nuovo modello di società estrattivista è ciò che egli illustra nel presente lavoro. E qui poi vi potete scaricare direttamente il file, il titolo in PDF. Quindi l'introduzione. Questa sì, è una piccola presentazione. Non ho capito. Raul Zibeki. Ah, è lui stesso. Quindi. Sì, sì. E, vi danno appunto da scaricare il file in PDF, e se volete invece le copie cartacee dovete scrivere al già citato Aldo Zanchetta, che è stato appunto il presidente di Recomo, insomma una persona sicuramente che ne sa un sacco. Sicuramente. Ha citato anche Saskia Sassen, che è invece una docente alla Columbia attualmente, credo. E riguardo a lei ho trovato una intervista fatta da Micromega, che insomma pubblicata da Micromega, fatta da Giuliano Battiston. E la trovate molto interessante. Che fa proprio un commento di merito. Sì, lei è stata la prima a parlare di queste cose. Quindi, ah, ok. No, scusa, chi è lei? Lei, Saskia Sassen, è una docente. Okay. Una docente di sociologia. Ok. Però, insomma, voi naturalmente poi vi chiederete com'è che si va a parlare di cose così lontane, anche se Pippo ci ha spiegato che non sono poi così lontane, perché possiamo... Certo. Diciamo sono più evidenti in posti molto lontani, ma sono in verità sono molto vicine. Se ne parla poco qua da noi, ma se ne parla. Abbiamo già un po' introdotta in verità questa questione una settimana fa con Ornella De Zordo. Esatto, settimana scorsa, sì. Col diritto alla città. Col diritto alla città, che insomma ha molte connessioni con l'estrattivismo, proprio perché ha l'approccio delle amministrazioni, per dire, cosa diceva? Che promette cose che alterano lo stato sociale, no? La militarizzazione e la creazione di leggi che rendono ciò che un tempo era illegale lo rendono legale, e quindi questo effettivamente succede anche da noi. E non lo dico io, ma è uscito un articolo sulla città invisibile, che è a Fagiuolo, proprio a Fagiuolo, e che parla di questo. Raul Zibeki parla di monoculture, va bene, quando parla dell'estrattivismo nel caso delle estrazioni minerarie, delle estrazioni di risorse. E si può parlare in un certo senso di monoculture anche qui nella nostra città, perché di fatto il turismo è questo, sta occupando tutti gli spazi della nostra città. Molto interessante. Per completezza di informazione, questa era l'intervista realizzata appunto, abbiamo detto, alla Due Giorni di Mondeggi, e loro presentavano che cosa? Presentavano il saccheggio. che è un'altra un documentario e appunto c'è un'inchiesta della, sull'estrazione di risorse in Chiapas. Ok, esatto. Allora, appunto, Chiapas a noi caro. Chiapas a noi caro, sì. Sì, a noi caro. Infatti bisognerebbe andarci. Perché no? Guarda, noi con... Radio poi... Wombat, se non sbaglio, ha mandato un contributo tipo dalle Ande. Sì, sì, fra l'altro durante la due giorni di mondeggi abbiamo avuto modo di parlare anche con un ragazzo che è attivo nel collettivo del Nodo Solidale, che ci ha invitato in Chiapas, proprio perché il Nodo Solidale, che essendo un collettivo che ha attivo sia in Italia che in Chiapas, diciamo invita i compagni e le compagne a vedere di fatto che cosa stanno facendo, a vedere quello che sta succedendo, anche a fare formazione proprio. E volete un'altra cosina? Dici tutto. Nodo Solidale, il Chiapas. Ecco una cosa, sì. Dicevano che insomma la radio in Chiapas all'interno della comunità, cioè del Chiapas, della comunità zapatiste, è una cosa importantissima, veramente importantissima, e anche molto molto rischiosa. Dice che chi fa la radio tendenzialmente caput. E comunque sì, lo zapatismo ha uno dei suoi pilastri nella radio. Nella radio. Evviva. Comunque, allora, si diceva La città invisibile. Io vi voglio leggere solamente un pezzettino per farvi capire quanto questo sia connesso. Quindi Firenze, l'espulsione della comunità locale in favore del turismo di lusso e del profitto dei pochi. E del profitto dei pochi. È una di Ilaria Agostini, è uscito a luglio. E vi leggo un piccolo pezzettino, va bene? Estrattivismo e monocultura. Con il termine estrattivismo si intende il sistema di accaparramento di risorse naturali, loro commercializzazione ed esportazione, contro il volere delle comunità locali e contro gli equilibri scusate, ho un problema al microfono e contro gli equilibri dell'ambiente. L'accaparramento tramite spossessamento, dice Harvey, è l'estrazione di rendite monopolistiche perpetrati da imprese multinazionali, rientrano nel quadro delle dinamiche coloniali e neocoloniali che si confanno la militarizzazione del territorio, la violazione dei principi di convivenza democratica, la violenza e la repressione. Bene, lo riascolterete in podcast e capirete. Fondato sulla monocultura agroindustriale, industriale e delle mega miniere, il modello estrattivista impoverisce e insterilisce vaste aree geografiche e intere nazioni del sud del mondo. Impoverisce socialmente poiché, come è stato scritto, depriva e spossessa le popolazioni di progettualità sul proprio ambiente di vita. Questo lo dice Zibeki. È una citazione di Zibeki, sì. Traslato sull'ambiente urbano, l'estrattivismo assume i tratti di accumulazione di capitale a spese della città, che è per definizione costruzione collettiva e bene comune, nonché giacimento limitato. Tale modello si manifesta nell'affermazione, nelle alienazioni di edifici pubblici, nelle privatizzazioni delle imprese pubbliche, nei servizi e nelle risorse primarie, ad esempio l'acqua, nella chiusura di parti della città. Qui loro ricordano, per esempio, la chiusura del Ponte Vecchio per la scena Ferrari. Certo, la menzionammo, peraltro. La menzionammo, sì. All'epoca. Nelle locazioni di sale monumentali e musei, nella brandizzazione, ossia nella collocazione nel mercato, nel marchio cittadino, il brand, sui mercati immobiliari e finanziari globali. Nella creazione di brand, l'UNESCO ha un ruolo non secondario. Interessantissima questa cosa. Scherzi, è chiaro invece proprio il collegamento. Certo, e poi, ripeto, è quello di cui parlavamo una settimana fa con Orlena del Zort. Sì. È proprio questa qua. Poi l'articolo prosegue, fa un approfondimento sulla questione di Airbnb, e su tante altre questioni che riguardano noi. Esatto, rimandiamo quindi a www.perunaltracitta.org. Esattamente. Per trovare questo articolo molto interessante. Firenze, l'espulsione delle comunità locali in favore del turismo di lutto, di lusso e del profitto dei pochi. Il lutto. Turismo di lutto. Turismo di lutto non sarebbe male, non ragazzi. Non è male, se noi dovremmo coniarlo come termine. È una cosa un po'... Potrebbe funzionare però, Mettici il copyleft. Ebbene, allora, ci vuoi raccontare altro? Per ora direi per ora no, è sufficiente. Sai. Per ora è no, sufficiente. Allora, direi che abbiamo dato molti spunti interessanti. Vi abbiamo dato tutti gli indirizzi, insomma, i posti dove trovare queste informazioni. Quindi super evviva. Ringraziamo ancora Pippo per l'intervista, quindi insomma il Recommend in generale. Secondo me non ci resta che dire una parola. Sigla! Sì, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. E eccoci qua, ciao, t'aspetta. Salve, salve, salve, buonasera a tutti quanti. Come Grande. Sempre è un grandissimo, bellissimo piacere e onore no, anche e anche noi. Onere anche essere onere. Qui Giusto. E siamo alla seconda puntata della seconda stagione di Nozioni Inutili. Si vai per conto tuo proprio cioè. Vai. Conto vai. Tutto tuo. Qui. Questa è una radio. Ognuno ha il suo calendario. Questa è una radio di lutto. Radio di lutto, ragazzi, da oggi. E no, qualche secondo fa c'è stato un piccolo problema tecnico col microfono. Quando abbiamo i problemi tecnici, da ora in avanti possiamo appellarci a un nuovo santo. Aha. O meglio, a un vecchio santo. E chi è? Perché oggi parliamo di San Ginefort di Borgogna. Ah. Chi è? Allora, questo è un santo del XIII secolo, della zona di Lione, precisamente di Saint-Drin. E direte voi, chi è? Quello che chi è? Non era una persona. Come? Mm. Era un cane. Oddio, sì! Sì! Ebbene sì, i nostri amici animali ritornano. Ma scusa, io sapevo che non potevano andare in paradiso. Evidentemente, anche i cani vanno in paradiso. Ma così ci smontano le bestemmie. Com'è che si chiama? San Ginefort di Borgogna. Sei buono. San Ginefort di Borgogna. Ma allora, qual è la storia di questo cane? Ecco, esatto. Questo cane era un cane levriero. E praticamente il cane era stato lasciato a guardia della stanza del figlio neonato di una coppia di nobili. Ok. Uno dei quali un cavaliere. Erano andati, si erano assentati per un torneo di caccia. Quando il cavaliere è tornato nella dimora, ha trovato la culla tutto quanto sotto sopra e il cane sporco di sangue. Paura. E male. Allora male, questo male. Qua ha preso la spada e ha infilzato il cane. Ok. In un gesto di rabbia. Certo. Poi però è andato a vedere e ha trovato il figlio sotto la culla che dormiva tranquillo e beato. E ha trovato i resti di un serpente. Allora ha capito no. che in realtà il povero Ginefort l'aveva salvato. Aveva salvato il bambino. Quindi, mosso da rimorso e pietà e compassione per la fedeltà dell'animale, gli ha dato una degna sepoltura in un cimitero, in una tomba fatta di pietre. Poi ci ha piantato degli alberi attorno a protezione. E però poi, con sua somma sorpresa, la tomba si è coperta di ex voto. Cioè, scusami? Praticamente erano delle sorte di... come dire, dei tributi votivi lasciati al cane. Le persone portavano i loro bambini piccoli ammalati alla tomba di questo santo, di questo cane. Ha fatto miracoli? Pare che avesse fatto tanti miracoli. Oh, ma è riconosciuto dalla Chiesa Cattolica. Ecco, e qui adesso arriva al punto. Il culto è sopravvissuto nei secoli. Successivamente era stato assimilato al culto di un santo umano, diciamo, per renderlo un po' più accettabile, però ha continuato, no? Nonostante tutto, addirittura nel 1539 un ecclesiastico aveva risumato i resti del cane e gli aveva dato fuoco dicendo no, questo è un culto eretico. Ok. Un po' di santeria, di insomma paganesimo. Sì, assolutamente. Il culto poi è stato effettivamente bandito dalla Chiesa Cattolica negli anni 30. No, sempre i soliti. Quindi davvero, se ora qualcuno, come dire, pregasse questo cane, sarebbe considerato un eretico dalla Chiesa Cattolica. Quindi non pregate i levrieri se volete l'anima salva, invece se siete come noi è diventato il mio nuovo santo, tipo. Assolutamente sì. Tra l'altro poi ci sono delle ulteriori non che prima ne avessi uno, scusami, volevo precisare. Chiaro, ci sono delle ulteriori curiosità. La celebrazione della festa coincideva con la canicola. La canicola, come sapete, è il periodo più caldo dell'anno. Sì, sì, certo. Che coincide con il passaggio di Sirio. Ok. E precisamente della costellazione del cane maggiore. Ma il canicola quindi viene da il termine dal cane maggiore. Dal passaggio del cane maggiore. Mm-hmm. Figura. E oltretutto non finiscono qui i cani santi. Aha. O meglio, San Cristoforo, santo protettore e patrono dei viaggiatori, in realtà in epoca bizantina, quindi nelle prime raffigurazioni, veniva raffigurato con la testa di cane. Ok. E Anubi. Qui ci sono due Anubi. Esatto, ci sono due versioni. La prima ipotesi è che fosse un'assimilazione cristiana di Sant'Ermanubi, che era una fusione tra Hermes e Anubi, che esisteva in periodo romano. Certo. E l'altra invece è che San Cristoforo appartenesse al cosiddetto popolo dei cinocefali, che erano uno dei popoli mostruosi. Teste di cane. Okay. Le teste di cane, esatto, che erano famosi per la loro aggressività. E c'è la storia di San Cristoforo, che inizialmente era una sorta di mercenario barra sicario, che voleva lavorare per l'uomo più potente del mondo. E quindi passò prima da questo gruppo di banditi con cui lavorava. Poi gli dissero: no, ma c'è qualcuno di più potente. Quindi passò a lavorare con quest'uomo che poi si rivelò essere il diavolo. Ah, è il più potente di lui? E però lui disse: no, ma più potente di me c'è, certo, c'è Gesù. E poi c'è tutta la storia di San Cristoforo che attraversa il fiume con Gesù in spalla, il bambino Gesù. Quindi la conversione viene dalla ricerca del più forte, e del mago più potente. E c'è anche un'enciclica. E Gesù è il mago più potente. Cioè, una vita dedicata all'asservimento. Cioè, servo di quello più forte, però sempre servo. C'è un'enciclica, scusaci, abbiamo interrotto. C'è una summa teologica dove un monaco dice: no, ma in realtà questi cinocefali, anche loro fanno parte, insomma, del regno di Dio, e quindi c'è tutta questa cosa, perché prima erano considerati degli esseri molto impulsivi. E quindi niente, come vedete, cani ovunque. E a questo punto direi di concludere qua. Sì. E se la regia è pronta, c'è un contributo audio. Visto che in questi giorni, tra l'altro, a Cascanca a Fagiolo c'è stato l'intervento del suddetto artista da Bonolis con Gianni Morandi. Anch'io voglio un selfie con Gianni Morandi. Avete visto questa cosa? Cioè, avete assistito a questa cosa? Avete guardato? Ho visto la foto. No, perché anch'io non sono andato a vedere poi la registrazione su YouTube. Vabbè, tranquilla intervista, niente di particolare. E quindi il pezzo che mandiamo a Fagiolo è Saint di Marilyn Manson. Wombat. Work of art, I white smile. Super ego bitch, I've been evil a while. What's my name? What's my name? Hold the S because I eliminate. What's my name? What's my name? Hold the S because I eliminate. What's my name? What's my name? Hold the S because I eliminate. What's my name? What's my name? Hold the S because I eliminate. E rieccoci qua. Questa era Saint di Marilyn Manson dall'album The Golden Age of Grotesque, prodotta da Tim Scold, che ha collaborato anche con i KMFDM. E tra l'altro, visto che parliamo di cani, c'è anche un gruppo musicale i cui cantanti sono due pitbull. Ah, i Caninus. Esatto, i Caninus, che sono un gruppo grindcore. I know. Con... neanche uno con un pappagallo. Sì, esatto. Gli Hatebeak, bravissimo. Infatti, li volevo portare la volta scorsa. Ma li fanno i concerti? No, sono tutti in studio. No, non possono torturare i cani in questo modo. E poi, vabbè, visto c'è anche Canibus, che è tutt'altro che un cane a rappare. È un grandissimo rapper americano. E niente. E quindi direi di poter anche concludere qui e non rubare ulteriore spazio. Direi Nozioni Inutili ha fatto il suo dovere. Nozioni Inutili ha fatto ciò che doveva fare, ha protetto suo la diretta. Santo dovere. Esatto. E quindi woof woof. Bene. Potrei lanciare prossima sigla, prossima rubrica. Vai. Eccoci baldanzosi in punta di pedale. Tutti in bicicletta, ragazzi, spero, vero? Ah, voglia. Ciao a tutti. Eccolo, l'avete Ciao. Sentito, c'è un ospite, signori. Un ospite specialissimo, tra l'altro. Wow. È venuto in bicicletta? Certo. Naturalmente, certo. Lui si occupa di biciclette, direi. Biciclette e... biciclette e muri. Biciclette e muri, per l'esattezza. Stavamo bella accoppiata. Bella accoppiata. Non biciclette distanti, sui muri. Esatto. Non spiaccicate sui muri. Non spiaccicate sui muri, ma a volte... dipinte. Dipinte, spesso dipinte, sì. Ecco qua, Opn. Ciao. Benvenuto. Ma io ti conosco, sei quello col nome in cirillico? Esatto, infatti se avreste studiato il russo sapreste cosa c'è scritto in quel nome. Tu hai studiato il russo? No, io non ho studiato il russo, l'ho solo tradotto grazie a Google Traduttore. Ah, vedi, allora. Però vi invito, insomma, a farlo. Opn è la traslitterazione dal cirillico a quello che si avvicina di più al nostro carattere occidentale, quindi Opn in realtà non significa niente. Leggendo il russo significa qualcosa di molto più... di molto più sostanzioso. Puntini. Scopriamolo, scoprite. Andate a scoprirlo. Allora, come stai? Beh, un po' dato. Lo so, ragazzi. Ci vuole. Allora, sei qua. Questa è una rubrica che tratta di biciclette. Però, appunto, non vogliamo passare per ecologisti e basta. Quindi abbiamo pensato che la tua presenza fosse super gradita. E raccontaci un po' te, i tuoi, si vedono tantissimi i tuoi lavori a giro per Firenze e molto spesso ci sono le biciclette sopra. Sì, allora diciamo che è la mia tematica principale da diversi anni, quasi una decina di anni ormai cerco di includere sempre una bicicletta nei miei lavori, nei miei muri o nei miei poster. Fondamentalmente sono un muralista e quindi lavoro nel tessuto urbano, lavoro sia direttamente sui muri, quindi dipingendo direttamente sul muro, oppure incollando poster che sono sempre dipinti a mano ma incollati sui muri, quindi me ne preparo un tot in studio e poi si esce o in compagnia o da solo ad attaccarli in città. Nella tematica principale c'è sempre l'uso della bicicletta. Diciamo, ho iniziato a Roma perché vabbè, sempre pedalando in città mi sono accorto che Roma è una città in cui l'andare in bicicletta è considerato, almeno per me, uno sport estremo, nel senso tu esci la mattina, sai di dover andare da punto A a punto B, sai quando parti, non sai quando arrivi, se arrivi, come arrivi. Era un po' una lotta ogni volta, quindi ho iniziato a disegnare le biciclette per invogliare le persone a magari a prendere più la bici invece che la macchina. Sui tuoi murali ci sono anche le macchine. Ci sono le macchine, normalmente sono tutte spiaccicate, sfasciate, distrutte. Mi divertivo, adesso un po' meno perché cerco, insomma, di coniugare questa doppia visione dello stare in strada, quindi la macchina contro la bici. Adesso invece di fare più cose negative, quindi di contrasto, mi piace più veicolare dei messaggi positivi e quindi di dire cosa c'è di bello nell'andare in bici. Sì. Ho visto macchine con le inferiate, con persone imprigionate dentro. Macchine gabbie, l'ho fatte di tutti i colori. Macchine gabbie, fatte a fette, l'ho fatta a striscioline. Da quant'è che lavori sui muri? Allora, io ho iniziato con i graffiti quando ero molto piccolino, adesso sono invecchiato. E ho iniziato a 14-15 anni, quindi nel 95 già facevo i graffiti. Facevo i graffiti in una cittadina, in un paesello microscopico, per cui l'alternativa era andare a bere in osteria oppure andare sotto i ponti a fare i graffiti con i ragazzetti più grandi. E questo mi ha salvato, diciamo, da varie situazioni spiacevoli o non lo so. Senti, ma te usi tre colori. Sì. Come mai? Allora, tre colori fondamentali che uso sono il bianco, il rosso e il nero. Li uso da quando ho iniziato a parlare di arte urbana e li uso perché ho studiato i manifesti di propaganda politica e ho notato che questi tre colori sono quelli fondamentali che si ritrovano dal punto di vista grafico in molti manifesti di propaganda, sia dagli anni 40 in poi, e quando ancora i manifesti avevano questa funzione propagandistica, nel senso di mandare dei messaggi e invogliare, anzi costringere o invogliare le persone a fare delle scelte politiche. Allo stesso modo io uso gli stessi colori per veicolare il mio messaggio e la mia propaganda, che è quella di usare la bici invece che la macchina. Questi tre colori dal punto di vista grafico funzionano perché il bianco e il nero è la soluzione massima di contrasto e quindi un messaggio arriva in lettura in 2 secondi e già vedi dall'immagine quello che è il messaggio di cui si tratta. Il rosso perché ha un carattere forte e la passione aiuta, la passione, l'amore aiuta a rafforzare il messaggio, quindi questi tre colori funzionano benissimo in strada. Passando anche velocemente in strada si può leggere un disegno, un'immagine in pochissimi secondi. Ecco, i muri funzionano per veicolare questi messaggi? I muri sì, hanno sempre funzionato, funzioneranno. Beh, sì, sempre. Da sempre, sempre i muri. Esatto, gli Etruschi li facevano, ma anche prima, nel senso, le prime pitture erano murari. Sì. Pompei è piena di scritte sui muri. Di biciclette sui muri. Non ancora. Sarebbe anacronista. Scusa, no, sarebbe anacronista, è vero, sì. Però ora io non so se è una cazzata. Però mi è capitato di leggere poi ve lo porterò questa cosa, una curiosità. Mi è capitato di leggere sul libro che è stato ritrovato in Indonesia, credo, in un tempio, il dio della bicicletta. Era insomma un bassorilievo con una bicicletta. Sì, l'hai visto? Sì, visto su internet. Sì. Quindi, è una roba, ma talvolta collegata anche agli UFO. Però c'è sto tipo che sembra che vada sulla bicicletta. Sì, esatto, sembra che vada in bicicletta. Oggi fa le polveri, santi, UFO. Dei, tutto, ragazzi, vabbè, stiamo veramente degenerando. Credibilissimi. Senti, Opna. Allora, te oltre a disegnare, cioè oltre a disegnare, no, oltre a il tuo lavoro si svolge nelle vie delle città, sui muri delle case, degli edifici, però hai una tana. Ho una tana che è uno studio. Che è uno studio, certo. In effetti tana è abbastanza congeniale perché è un piccolissimo buco dove ovviamente lavoro, però anche e su altri formati, diciamo, su quadri o carta di altri formati che non siano quelli destinati ai muri. Soprattutto lavoro con la serigrafia, che è un mezzo di stampa molto pratico per chi non ha i mezzi fondamentalmente per fare ottime tirature o lunghe. La serigrafia si può fare anche con mezzi abbastanza, in maniera molto punk, diciamo, si può fare con poco nei bagni, si può fare una camera scura, si recupera il legno e con quattro materiali riesce a fare una stampa degna di questo nome, quindi riesce a fare una tiratura anche abbastanza elevata con un risultato interessante. Ecco, il tuo studio è in un contesto particolare, direi. Il mio tugurio, la mia tana tugurio, la tua tana, è all'interno di un'associazione culturale che si chiama Fare Spazio. Io da 2 anni sto lì con loro perché nel momento in cui mi sono trasferito a Firenze cercavo un punto, una stanza dove lavorare. Sono imbattuto in questa associazione che è molto divertente, fanno un sacco di cose, di attività interessanti, tra cui i corsi, appunto il corso di serigrafia che tengo io e faccio da loro. Fanno varie cose, lo yoga, ho visto le campane tibetane, un corso di restauro mobili, sì, un corso di rilegatura di libri. E quando è aperto Fare Spazio? Mi sembra sia aperto, ecco, dai, ricordatelo, sì, martedì, se non mi sbaglio, martedì e giovedì c'è la ciclofficina e i corsi vanno in base a quando ci sono i corsi, diciamo, normalmente la sera, però quello che mi ricordo è che lo yoga è il lunedì sera, quindi io devo sgombrare la sala prima del... Questo okay. È l'unico che mi hanno una pagina Facebook da visitare. Esatto, la pagina Facebook di Fare Spazio, ci sono tutte le attività e il calendario. Esatto, comunque tra le attività hanno una bellissima ciclofficina. Esatto, quello è il nostro fiore all'occhiello. Da un anno a questa parte abbiamo messo in piedi una ciclofficina popolare e la gestiscono 2 meccanici molto bravi e dotati, che saluto, e che tengono aperto 2 giorni a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 4:30 alle 6:30, e chiunque può andare nella ciclofficina, tesserarsi, perché dura un anno e l'associazione copre anche il discorso assicurativo, insomma se uno si fa male non andiamo in galera. E quindi 2 giorni a settimana possono mettersi a posto la bici, imparare a fare delle cose basi, che è il concetto fondamentale della ciclofficina, cioè imparare a fare da solo delle cose che di una meccanica semplice come quella della bici, chiunque può fare. Sì, esatto, ho introdotto un tariffario, veramente con prezzi popolarissimi. Sì, perché cerchiamo di recuperare il più possibile tutto, perché la gente poi ci dona i catorci, le bici mozzate, senza una ruota, senza una selle, quindi prendiamo magari le parti che sono ancora utilizzabili e le rimettiamo in circuito. Sì, a prezzi tipo a 1 euro, 2 euro. Veramente sì, una cosa... In pieno spirito hacker, per rimanere su un tema. Lo stavo per dire io. In pieno spirito hacker, esattamente. Laddove hacker, si intende per hacker il farsi le cose da solo. Beh, certo, sì. In un certo modo, sì, esatto. E invece avevo una domanda, forse stupida però. Il pezzo più geograficamente distante da qui che hai fatto, dov'è? Mosca è lontano? Vabbè, insomma. Mosca, sì, dai, Mosca. Mosca, bello. Un'iniziativa, una follia, una ragazza che quando abitava a Parigi, una ragazza si era messa in mezzo per portare degli artisti a Mosca, visto che lei aveva di origini russe, e ci ha portato lì a ottobre, era un freddo micidiale, e dovevamo dipingere sti muri di un museo che doveva essere buttato giù, e solo che la notte gelava, quindi... Io dovevo dipingere su un punto in cui c'erano dei pannelli di legno, gelava, e quindi la mattina era uno strato di ghiaccio e non si poteva fare niente. Era perfetto, micidiale, sì. Però bella, siamo andati al ristorante, è stato carino. E lì che hai deciso di chiamarti Opna? No, già mi chiamavo Yuri. Devo dire che mi aspettavo un po' un riconoscimento più ampio, invece la gente non mi cagava. Sì, figure, questo, poi anzi, mi hanno chiesto di non utilizzare il rosso. Ah, addirittura, davvero? No, il rosso. Sì. Perché gli ricorda un momento che non vogliono più ricordare. E quindi bianco-nero? No, mi hanno chiesto. No, l'ho fatto il rosso, cioè ho fatto altre cose. Però quello che doveva essere il progetto principale non è stato fatto, perché mi avevano chiesto di usare il blu piuttosto che il rosso, quando è il mio colore e non si può fare altrimenti. Quindi ho fatto un'altra cosa parallela, un po' più piccola, però insomma ho usato il mio colore. Allora, senti, io volevo farti un paio di domande. Intanto ho visto che Mosca, fai tantissimi lavori a giro per l'Italia e per l'Europa. ho visto di un tuo progetto recentissimo che si occupa di cucina. Esatto. Allora, insomma, è una scusa quella della cucina, si chiama Graffiti per pranzo, probabilmente sarà questo il titolo di un libro che sto scrivendo. Per ora sono nella fase di raccolta materiale, quindi sto cercando di raccogliere più materiale possibile. Il materiale in questione è frutto di uno scambio. In pratica io offro un murale alle persone e le persone in cambio mi devono insegnare una ricetta tipica. Ah, bellissimo. Bellissimo. È nato quando vado in giro, cioè da sempre quando vado in giro nei paesi, nelle città, cerco il forno, cerco il ristorante tipico perché mi piace cercare i prodotti tipici. In un paio di occasioni è successo che la vecchina del posto mi ha chiesto me lo fai in disegno anche sotto casa mia. Io ho detto certo, te la sai fa la pasta fresca tipica. Lei mi ha detto certo, come no, l'ha presa come una sfida, quindi bello. Ci siamo messi sotto, io sul muro e lei in cucina stende la pasta, è stata molto più veloce di me. E mi ha fatto, insomma, è nata sta cosa divertente. E la cosa simpatica è che io entro direttamente nella vita delle persone, quindi conosco le persone a tavola, che è un ottimo modo per conoscersi. Uno dei modi migliori, esatto, penso. E in maniera del tutto spontanea e c'è questo baratto, questo scambio di saperi. Io offro quello che so fare, quindi l'arte e il murale, e le persone mi offrono un piatto. Questo significa che devono farmi, cioè si sentono anche orgogliosi di fare il miglior piatto che sanno fare. E in un paio di occasioni è successo, adesso cerco di fare più esperienze possibili per poi raccontarne in un libro. Ho fatto un post sulla mia pagina Facebook che racconta e invita le persone a scrivermi per prendere contatti e fare, insomma, partirà in primavera questo tour gastronomico. Fantastico, te la sei fatta bene, sì, bene. Mi bella, bella, bella. Un po' gioca anche sul fatto che spesso si dice che con l'arte non si mangia, non si riesce a campare, invece io riesco a mangiare, per farci la battuta prima, almeno una volta a settimana più o meno c'ho un pranzo assicurato. E che pranzo, direi, che pranzo, perché sì. Già, ti devono preparare. Esatto. Senti, con l'arte non si mangia, ma a Firenze che sta succedendo riguardo all'arte che eserciti tu? Perché ho visto che ci sono state delle aperture, vi hanno messo a disposizione dei muri dove potete dipingere in modo legale? Ci sono state delle aperture, sì, perché almeno se ne parla e si discute. Molti dei muri che erano già dipinti e presi da noi per strada, dove si organizzavano le feste, le cose, erano già dipinti, quindi erano già muri legali. Ora ci hanno messo la firma e ha detto, sono muri legali. Questione d'immagine. Però no, in effetti hanno messo altri muri a disposizione. La lista è un po' lunga, io ho cercato anche un po' di seguire queste riunioni che facevano con i vari assessori. Ora dovrebbero uscire i bandi, perché oltre a una serie di muri liberi che ben vengano, però so palestre dove i ragazzini, sì, infatti, e magari chiunque vada a dipingere, e va benissimo, perché anch'io con gli amici ci andiamo e ci si va, ci si andrà di continuo, però è una palestra, quindi i graffiti lì restano un giorno, due giorni, una settimana, perché poi è naturale che vengano ricoperti. Oltre a questi ci sono in proposizione una serie di muri che chiamano muri d'artista, che dovrebbero essere muri a progetto, in cui i proprietari dei muri, piuttosto che i privati, mettono a disposizione il loro muro. Gli artisti, inviando un progetto, poi ci dovrebbe essere una commissione, tutta una cosa un po' particolare, possono dipingere. Il fatto è che chi dipinge o chi organizza tutta questa baracca deve trovarsi anche i fondi per far lavorare l'artista, comprare i materiali, pagarlo, perché quello mi sembra giusto, il minimo indispensabile, insomma, che il nostro lavoro venga riconosciuto anche dal punto di vista economico. Per ora non, insomma, è tutto in lavorazione, quindi vedremo come andranno avanti i lavori. Speriamo, dai, perché un annetto fa a Bologna è successa una cosa particolare. Lo strappo del muro. Lo strappo dei muri e del muro e tutta la questione che di fatto l'arte da muro è infilata nei musei. Sì. Ora, quel muro lì di preciso non so che fine abbia fatto, perché da progetto doveva essere rimesso a disposizione della città. Ora non so in effetti che fine ha fatto, dove è finito. Comunque sì, quello è stato un momento particolare, perché davvero si è visto come le persone, insomma, possono fare proprio quello che non è proprio. Quindi quello che è della città diventa di un privato e non funziona così. Beh sì. Comunque è un tema, diciamo, aperto a Firenze. a me si viene sempre da pensare se, se non, non è molto una questione di immagine. A Firenze c'è molto lavoro da fare da questo punto di vista, perché cioè, è una delle poche città in cui i murales sono fondamentalmente assenti dai muri, cioè ci sono due facciate fatte in 20 anni, ci sono un sacco di graffitari, d'artisti, c'è una storia abbastanza importante di writer, però che restano writer e restano lì. In realtà ci sono tanti artisti che come me stanno qua, però vanno a dipingere a Bologna piuttosto che a Valdelsa. Anche perché qui avete dei nemici, ci sono gli angeli del bello. Sono tante associazioni che si fanno belle sui muri belli, che fanno tutti beige a macchiette, cacchette. Le toppe. E le toppe, adesso sì, quelle che dobbiamo fare. Hanno fatto scuola, perché poi gli angeli del bello si sono chiamati retake a Roma, a Milano, e hanno fatto purtroppo scuola, e insomma, sotto questa bandiera del bello si radunano un sacco di personalità. Pensa che quest'estate io sono andato a San Salvi a vedere uno spettacolo dei Chili della Balanza, e insomma, la persona che faceva lo spettacolo ha raccontato questo aneddoto, che dove appunto gli angeli del bello sono arrivati anche a San Salvi a ripulire i muri di San Salvi, e hanno pensato bene di andare a coprire dei disegni, delle scritte che risalivano alla festa di apertura dei manicomi appena dopo la legge Basaglia, e di fatto, cioè, che erano delle opere d'arte tutelate, va bene, loro ignari di questo hanno proprio scoperto tutto con i loro pennelli. Ottimo. E non sanno come fare a ritirarli fuori questi Beh, questi una disegni. Volta cancellati sono andati, ma anche durante Finestra con Vizza mi ricordo venne Jeff Areosol casualmente, insomma un nome importantissimo degli artisti europei a Firenze, fece due stencil in un muro, e venne coperto da una manata di giallo cacchina, oltretutto sgocciolando sui mattoni, su quello che c'era sotto. Non, quindi io credo che chi va a dipingere non c'ha una nozione di quello che sa, cioè io mi chiedo se saprebbe riconoscere un Keith Haring su un muro, un Banksy, e lasciarlo oppure no. Tante volte vedo in giro, ma questo mi fa incazzare, vedono, cancellano tutto tranne, che ne so, il palloncino di Kuka, che va bene, sì, però sì, oppure perché ci sono quelli a cui vogliono bene, gli vanno perché bene. C'è scritto sopra Juve merda, cancelli tutto, però Juve merda lo lascia. Bene, senti, l'ultima domanda, l'hai usato il Mobike? No, non l'ho usato, no. Io ho la bici mia. C'è la bici tua, giustamente. Però va benissimo, insomma, che adesso non so nemmeno quanto costa e come funziona. Li vedo per strada, li vedo che vengono utilizzati, e perché no? Sì, è arrivato anche un operatore nuovo di bike sharing, si chiama Gobi. No, quello sono biciclette verdi, le hanno messe in circolo 400, arriveranno a 4.000, quindi arriveremo a un totale di 8.000 bici da bike sharing a Firenze. Perché devono fare concorrenza con l'altro, così abbassano i prezzi. Ma in verità questo ancora non si è capito, perché non è che ci spieghino niente, praticamente fanno... Però vediamo. No, ma benvengano. Adesso oltre alle biciclette ci servono le piste ciclabili, perché... Ma questo, non sembra ci sia una grossa intenzione di decidere in quel verso. Ci sono un sacco di piste anche in città, a me fa troppo ridere, che vanno belle, lunghe, poi una certa finisce. Burda. È come se il ciclista sparisce, sì. Non c'ha più bisogno della strada, poi diventa nectoplasma, attraversa una piazza. No, piste ciclabili devi prendere da contromano. La base di questa pianificazione. Forse rendere i ciclisti creativi, cercare... A Milano hanno iniziato a dipingere le piste ciclabili per strada in maniera illegale, e a volte il comune capisce che in effetti lì c'è bisogno e la rifà per bene. A Roma c'è un video simpatico in un sottopasso che porta al quartiere di San Lorenzo, gli attivisti hanno dipinto per strada un pezzo di ciclo... Pista ciclabile, il comune, per non andare incontro a, insomma, se uno si fa male in una pista non autorizzata, se la prende col comune, l'ha cancellata in malo modo, quindi sembra un po' sbiadita, e le persone, il risultato è che le persone in macchina vedono questa specie di pista di segno e quindi non ci vanno, quindi è restata pista ciclabile. Cos'è, un suggerimento di faccele da noi, ce le facciamo da noi? Potrebbe essere un'idea, perché no? Basta un pennello, due pennelli. Io a fare spazio la feci una pista ciclabile. Sì. No, ma viene sta ciclofficina. Sì. Benissimo. Cos'altro dire? Intanto ringraziare, perché grazie a bella, voi. Bella. E se volete offrirmi un pranzo, ecco, guarda, guarda, probabilmente c'ho un po' sì, fame. Oggi ho mangiato, no, scherzo. Oggi, però, oggi insomma, se male, però. Da, a Firenze c'ho diversi contatti. Tanto abitando qui, amici, ci so. Però imparare a fare tutti i piatti tipici sarebbe figo. Fa una sezione speciale Firenze. Insomma, dal posto che ho fatto, sono usciti un sacco di amici siciliani che mi invitano giù. Quindi andrò a fare sicuramente in primavera un tour siciliano e gastronomico. A Palermo ci sono anche noi. A Palermo è piena dei pezzi miei, perché ogni quest'anno. Volta che ci vado ci sono gli amici ed è molto più facile dipingere in strada, anche tipo alle 3 del pomeriggio. E quindi è una città che ho toccato più volte, sono rimasto in contatto e quindi le persone sono prese bene. Benissimo, hai un contatto dove ti possono mandare offrire cibo? Allora, il mio IBAN è il contatto al sodo, direttamente. Sul sito hopnn.com oppure sulla pagina Facebook hopnn. Benissimo. Grazie. Grazie a te. Ci vediamo sui muri. Ciao a tutti. Eccoci qua con l'uno dei Balcani. È un po' che non ci sentivamo sulle frequenze di Radio Wombat. Sono le 18:09. A me mi sei mancato. A te ti sono mancato? Grazie, mi fa molto piacere questa cosa. L'Uro dei Balcani ha sempre avuto un andamento un po' balcanico, esatto. Proprio i Balcani Monti, quindi a volte si diceva cazzate, a volte si diceva cose serie. Oggi saremo un attimino più seri. È così. Però, nel senso, oggi serietà. Pieni di contenuti molto interessanti e quindi spero di dare anch'io il mio contributo. E dai. Qui ci sono momenti pericolosi. Momenti di panico. Momenti di panico. Allora, che in realtà avevo annunciato la questione eoni fa, non mi ricordo quando dici, la prossima volta ci saranno le Balcane, poi un mesetto fa. Sì, tipo, salta. Va bene, ma è così. E un eone? Non lo so precisamente. Allora, avevo promesso di parlare di Sarajevo, di fare un po' una storiella su Sarajevo. Perché? Perché ho scelto di fare questo, a parte il fatto che appunto l'Uro dei Balcani, Balcani, ci siamo. Come? No. E, perché ho trovato questo bel libro, si intitola appunto Sarajevo, di Piero Del Giudice, che è un po' un reportage fotografico e non solo, ma anche di racconti, proprio su l'assedio di Sarajevo e tutto il l'ambaradan. Però andiamo con ordine. Edizioni Saral, peraltro. Andiamo con ordine. Sarajevo, dovete sapere, il mio microfono balla. Sarajevo, dovete sapere che fondamentalmente già dall'età della pietra ha una sua presenza di persone, di abitanti, insomma abitazioni che continuano in epoca romana. Diventa una città romana, Sarajevo, dal nome Acque Sulfure. Dopodiché si passa invece al Medioevo, che queste piccole case cominciano ad avere un interesse per qualcuno di più organizzato, e intorno quindi al mercato, che era il centro della città di Sarajevo, che era si chiamava Vrbosna, era la fortezza accanto a questo mercato che costituiva il centro. E nel 1461 arriva, appunto, vi dicevo, un interesse all'alto, arriva il primo governatorato ottomano in Bosnia, che comincia a far crescere Sarajevo, la città di Sarajevo. Quindi siamo partiti dalle talle della pietra, i romani, gli ottomani danno un nuovo impulso. Nel XVI secolo, infatti, la città comincia a prosperare felicemente all'interno dell'impero ottomano. Ma era anche una città molto importante, tra l'altro. Era una città importante, non molto importante. No, vabbè, ok, scusa. Non ci allarghiamo. Scusa, non volevo. Nel senso che Kocrami, sotto gli ottomani, dall'aggruppamento di villaggio diventa una città, diventa poi una capitale, e quindi sì, da quel punto di vista è la capitale del... E allora dai, però non subito, ci vuole un attimino di tempo, per cui... Lentamente importante. Questi giovani tutto importante. Subito. Scusate. Però, prima cosa curiosa, quando è che per la prima volta Sarajevo viene devastata? E da chi? Da noi italiani. Già italiani? No, 1699, okay. Quindi non c'è l'unità d'Italia, l'Italia è ancora un guazzabuglio di governatori e potenze straniere, però tale Eugenio di Savoia, quindi d'altronde abbastanza italianissimo. Francese, veramente. Savoia è a metà fra la Francia e l'Italia, però era per indicare, poi saranno, come ben sai. Scusa, prosegua. Ecco. Nel 1699 il principe Eugenio di Savoia contro l'impero ottomano e fondamentalmente rade al suolo completamente Sarajevo. A spregio, tanto che devono costruire una nuova capitale, cioè Sarajevo a quel punto viene un attimo messa da parte per essere ricostruita, e Travnik diventa la capitale della provincia ottomana. Quindi già noi siamo i primi ad avere... Una città tranquilla, insomma. Una città tranquilla. Niente, andiamo avanti. Nel 1878, quindi due secoli dopo, nuovo chi è che poi succede all'impero ottomano? L'impero austro-ungarico, appunto, che prende in mano Sarajevo, la finisce di ricostruire definitivamente, a questo punto però aggiungendo tutta l'architettura occidentale, perché comunque era invece di fattezze ottomane, quindi arabe, diciamo, e invece comincia a prendere le fattezze più occidentalizzanti. Mitteleuropeo, bravo. Per cui la città comincia a essere un posto anche interessante dal punto di vista culturale, architettonico. Perché prima no, prima... No, sì, ma no, a questo punto c'è il connubio. Ha detto finora era poco. Allora faceva cagare. No, è bellissima Sarajevo questa certo, cosa. Certo, assolutamente, ma non volevo sminuire Sarajevo. Stavo dicendo che l'incontro di due culture che si fondono fra di loro rendono appunto in questo passaggio storico la città molto importante. Esatto, no, ma interessante, dico, è un crocevia appunto di culture diverse. Oh, vai, grazie. Se no qua tutti contro di me. No, no, siamo tutti con te. No, è vero, Mario era... Oh, poi dopo mi prenoto per dire una cosa. Certo, anch'io. Puoi dire tutto quello che vuoi. Se la vuoi già dire ora che riguarda questo periodo storico. No, no, no, pure. Vai. Ok. Niente, perché diventa famosa? Diventa famosa poi nella prima guerra mondiale, perché nel 1914, il 28 giugno, l'arciduca d'Austria, Francesco Ferdinando, viene... Sparato. Quindi, no, la famosa scintilla che dà il via alla prima guerra mondiale, esatto. Sarajevo purtroppo perde appunto l'importanza culturale, diventa più famosa per questo atto che poi in realtà nasconde una città bellissima e tranquilla. No, sì, era un centro industriale fondamentalmente, quindi un posto sia culturalmente appunto vivo, ma anche dal punto di vista economico. Quindi stiamo parlando veramente di una capitale a tutto tondo. Il patatrack comincia a succedere, come ben sapete, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la creazione della Jugoslavia, uno stato che è un po' un puzzle di vari pezzi di altri stati, o quantomeno di etnie e religioni differenti, che fino ad allora erano state tutto sommato anche con un buon connubio fra di loro Tolleranza non mi piace come termine mai. Però vivevano insieme comunque. Esattamente. Ricordiamo fondamentalmente che quindi c'erano, da una parte, fino a quel momento l'Islam era la religione maggiore, dopodiché i greco-ortodossi subentrano, e però in una situazione abbastanza tranquilla. Però questa creazione della Jugoslavia dà il via invece ai primi scontri fra le varie anime della Jugoslavia, che porteranno alle estreme conseguenze. E appunto è quello che volevo raccontarvi un po' oggi. Nel 6 aprile del 1992 inizia la cosiddetta guerra di Jugoslavia e la città viene assediata. Viene assediata dalle forze serbe. Non vado a raccontarvi precisamente tutte le questioni. Perché viene assediata, qual è l'idea di pulizia etnica serba, perché ancora prima caduta del muro di Berlino, bravo. Sfaldamento dei, insomma, degli ex stati sovietici, bravissimo, cos'è, Slovenia che dichiara l'indipendenza, e da lì crolla tutto, ecco. Sì, andate esatto, a vedere, è molto studiare lunga. Perché sì, anche perché è un pezzo della storia che ci ha toccato anche noi da vicino. Io mi ricordo, tra l'altro, io mi ricordo benissimo i telegiornali. Bravo. Io mi ricordo i nostri aerei che bombardavano in Jugoslavia. Me lo ricordo da bambino. Il famoso corridoio umanitario che portava le cose dentro Sarajevo. Assolutamente. Dite pure se avete da aggiungere. No, dalla Sardegna, da Camp Derby passavano sopra la Toscana. Ah, bravo, bravo. Esattamente. La guerra dura fino all'ottobre del 95. Quindi sono tanti anni, e quindi stiamo dicendo che la città viene assediata a partire dal 92, cioè un inferno che è durato a lungo, e vorrei già sottolineare che era l'epoca dell'uranio impoverito, quindi la guerra della Jugoslavia non ha portato solo morte lì per lì, ma anche successivamente per ancora via... oggi, tuttora, sì, bravi, scusa, certo, sì. Tuttora, senza contare le mine anti-uomo. Assolutamente, assolutamente. In Bosnia, quando ci sono stato io, c'era ancora buona parte delle foreste completamente minate. Sì, io ci sei stato quando due sei anni stato? Fa, un anno no. Fa. Qua, 5 anni fa. Ah, ok. Sì, comunque c'è ancora un 12-15% di territori che non sono stati ancora sminati. Ragazzi, non poco. Ci tenevo prima, poi io sono risultato sminuente, ma in realtà ci tenevo a dire che invece era una città culturalmente molto attiva, e questo è sottolineato, secondo me, dal fatto che c'era una biblioteca pazzesca. Cioè, Sarajevo aveva una biblioteca con testi... occidentali, ma anche arrivanti dall'Oriente, a molto antichi, e che purtroppo sono andati completamente distrutti, perché venne bombardata proprio la biblioteca per giorni, venne bombardata con proiettili che si infiammavano, quindi proprio bruciata e rasa al suolo. E, eccola qua la storia, andatevela anche un po' a leggere. In questo libro che io vi sto un po' portando, vi leggerò un piccolo estratto, c'è proprio una parte dedicata a quello, dedicata alla biblioteca. E, va bene, questo lo saltiamo. E perché dicevo, culturalmente, cioè, ci sono un sacco di nomi, andando a cercare, di personaggi interessanti, proprio originari di Sarajevo, che hanno vissuto la città sia prima che dopo che durante. Già dal Medioevo poeti e artisti famosi popolavano appunto questa provincia romana, però ha avuto tipo un sacco di premi Nobel, io non lo sapevo, tipo Vladimir Prelog, che ha vinto il premio Nobel. Sono andato a cercare un po' che cosa per la chimica. Lo vince nel 75. La dizione dice: le sue ricerche sulla stereochimica delle molecole e delle reazioni organiche. Allora, io sono ho provato ad andare a leggere e dire: beh, così faccio il preparato. Non ci ho capito niente. Non ci ho capito nulla. Sì, in 5 minuti, eh. Esatto. Ma posso. Scusa, sì, no. sì, se vuoi interrompermi ora, interrompimi pure ora. Perfetto. Sì, sì. Salvo. No, cioè, avevo altri nomi interessanti da dire. No, per sulla sede di Sarajevo. Che c'è un. Non che sia un'esperienza che nessuno penso voglia rivivere, però c'è un gioco molto bello, molto molto bello, che si chiama This War of Mine. Ah, bravo, ne parlavamo. La sì. mia guerra. Che è fondamentalmente un gestionale bidimensionale di sopravvivenza durante quello che non è chiamato la sede di Sarajevo, ma è esattamente quello, in cui tu giochi nella parte dei civili, gruppi di civili che cambiano, anche perché muoiono molto velocemente, diciamo, e devi sopravvivere. Direi. Proprio scandito a giornate, mesi, settimane, mesi, e devi sopravvivere in una zona di guerra da civile, da completo civile. Ed è molto bello. E fra l'altro c'è anche un aneddoto abbastanza carino sul gioco, che è un gioco che appena venne presentato c'era subito un sacco di gente che ci voleva giocare. Fatto sta che riuscirono a rubargli delle copie, che misero scaricabili gratuitamente, ovviamente via torrent, e la risposta del 11-bit studio era, ecco, bravo, ti volevo domandare, di quelle zone lì, fra l'altro, che sono la casa di produzione. Sì, la casa di produzione, chi l'ha sviluppata, la casa di sviluppo, di sviluppo, è giusto, sì. Come risposta, cosa hanno fatto? Hanno rilasciato delle copie gratuite scaricabili, dicendo: scaricatelo se volete provare a giocarci, ancora non è neanche finito, quindi non sarà pieno di bug, però giocateci. Il resto, le chiavi, chi lo vuole se le prenda, ci giochi, se avete un po' di soldi compratecelo e aiutateci a finirlo. È uscito, ha fatto molto successo, fra l'altro, e stanno facendo uscire ora, non voglio fargli pubblicità, però è molto bello perché ti fa sentire un po' sensorialmente cosa vuol dire, e ti mette di fronte anche delle scelte semplici inizialmente, ma non molto profonde, ecco, insomma. Sì, esattamente, grossa. Anche perché poi i racconti che si possono leggere appunto anche in questo libro, dal punto di vista dei civili, sono tremendi, perché comunque c'era anche tutta la questione, ok, dei cecchini. Esatto, cioè, quindi, che nelle file per andare a prendersi il pane e o l'acqua e ti... Anzi, miravano apposta sui convogli umanitari e aspettavano che arrivassero i civili e gli sparavano addosso. Sì, allora dico l'ultima, è un po' tardino, quindi dico l'ultimo famosone che volevo citare, che è Emrik Kusturica, che è un regista. Emir Kusturica. Che ho detto io? Hai detto un po' male. Ehi. Bravissimo, bellissimo. Esatto. Vabbè, coi nomi si sa che io non sono granché, però no, ci tenevo a sottolinearlo anche perché... lui è... sì, no, scusate. Di chi stiamo parlando? Del Kusturica. Regista Emrik Kusturica. Detto bene? E niente, no, volevo citarlo proprio perché è celebre per i suoi forti e continui attacchi ai movimenti di ultradestra. Quindi è un militante... Sì, un attivista. Molto, un attivista, non militante. Un attivista. Esattamente. E tra l'altro, lui, non so se sapevi, ma nel 1993 sfida a duello... non dirò il nome, però è questo leader dell'ultradestra, dice: bene, basta, hai rotto le palle, ora ci vediamo in duello. Ma lui è un personaggio, è un grande. Un duello di cosa? Di spada, di pistola? Allora, non è ben specificato, è un duello. Dobbiamo approfondire, loro, comunque. Dovremmo approfondire, forse a cazzotti, no? Penso a spada. Spada. E, però il leader del partito ultranazionalista non si è presentato, si è rifiutato dicendo nazionalista, dice no, non voglio essere accusato dell'omicidio di un filantropo, sì, con testuali parole, e non si è presentato. Faceva in due costui. Tra l'altro, scusami, c'è un film bellissimo, ovviamente, sulla storia di Sarajevo, che è Underground. Bellissimo, dura tipo 3 ore, però bello. Bellissimo, sono d'accordo. Avevo altre cose da raccontarvi, non ve le racconterò. Magari nelle prossime puntate leggerò qualche altro estratto. Andrei a invece a questo punto a leggervi questo contributo. Grazie. Una tragedia urbana. Da qualche giorno si può andare con sufficiente tranquillità lungo le grandi prospettive, prima interdette, della città nuova. Vojvoda Putnik e Sesta Proletaska corrono lungo tutta la valle verso il PTT e l'ultimo checkpoint prima dell'aeroporto. Lungo i due grandi viali successivi, a doppio senso con i mezzi binari dei treni, dei tram, si alzano le alte case popolari, i grattacieli che tengono stretta la pianura, le sedi amministrative, silos di raffinerie, periferie industriali. Può essere Milano o Londra, o la periferia di Zurigo, egualmente mossa tra colline. I colpi di tank hanno aperto brecce ovali nei contrafforti di cemento delle alte costruzioni moderne. I piani alti sono disabitati, anneriti dagli incendi, e rabbiose le tracce delle granate e dei colpi di mitragliatore, violente contro i muri. Cisterne forate, interi isolati di sabbia dei nidi di mitragliatrici. Contorsioni di ferro dappertutto. I pali delle linee elettriche abbattuti, carcasse d'automobili, quando può darne in rottame una città moderna. Nella città vecchia la violazione delle moschee, che risalgono al periodo aureo ottomano, delle chiese, delle molte fedi, di biblioteche e musei, è la violazione della memoria, di ciò che cerchiamo per appoggiarci quando la vita vacilla. Qui è il collettivo della metropoli, la convivenza senza simboli, la grandiosa, anonima quotidianità della democrazia, amputata, ferita col ferro e col fuoco. A Novo Sarajevo abitano in stragrande parte famiglie miste, e in un suo quartiere, a Pofalici, è avvenuta nei primi mesi della guerra l'unica strage esplicitamente etnica, con lo sterminio di alcune famiglie serbe. La città ne ha vergogna. In queste case alcuni giorni fa si era in prima linea. Dietro le finestre schermate i giovani soldati della Repubblica tenevano sotto tiro Gravica e Vraka. Parlo, ma non fare il mio nome, perché mio padre è dall'altra parte, dice quello che sta raccontando questa cosa al giornalista. Come dall'altra parte? Gli chiede. Sì, siamo serbi e lui è rimasto di là, dove ha la casa e la famiglia. Io sono studente, difendo il modo in cui vivevamo prima. Nessuno di noi ha mai chiesto all'altro se era serbo, musulmano o croato. Ho sue notizie, riesce a mandarmi delle lettere, sta bene. In queste case, da un grande cortile all'altro, sono state aperte brecce e camminamenti. I palazzi hanno preso nome dalla guerra e dagli snipers. Ogni quartiere è stato conteso. Adesso il cemento armato, spogliato dalle vestizioni per gli incendi e la fuga degli abitanti, sventrato qua e là dai colpi, incombe come la più grande tragedia. A Novo Sarajevo sono morte le leggende urbane e l'utopia collettiva della città. I morti singoli si dimenticano, anche quelli che escono dall'epos familiare ed entrano nella leggenda collettiva. Ciò che non si potrà rimuovere è questa occasione perduta, la sfida cui ci ha chiamato Sarajevo e che abbiamo disertato. Sarajevo è ora divisa in protettorato americano e russo. L'Europa, gli stati europei, si sono esercitati in sterili politiche di influenza con esiti criminali. La domanda di democrazia e di convivenza che è venuta da questa città e dal suo sacrificio, dai suoi combattenti e dalla sua gente, ha come risposta il silenzio, il collasso di questa successione di ossature urbane deserte. La sfida alla memoria della città moderna, dove i corpi vivono, l'esistenza negli spazi urbani uguali, nelle stanze simili e progettano il futuro dentro un orizzonte visibile, è caduta a Sarajevo. se bije, raznog svijeta bilo, svako svoga traga ostavio, svako traga po neko vraga, ko će znati ko je kakav straga, ko će znati. E rieccoci qua. Questo era un pezzo di Damir Imamović, che è un musicista bosniaco, appunto, nato a Sarajevo. Sboom, boom. Super lettura. Evviva, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. L'Uro dei Balcani quindi finisce qui per questa settimana. Ci sentiamo presto, non vi dico quando perché non lo so. Surprise. Allora, siamo arrivati alla fine, anzi siamo molto tardi. Siamo arrivati già oltre l'ora. Siamo lunghi. Siamo lunghi, ragazzi. Però non possiamo esimerci, almeno per ora, da raccontarvi cosa accade in questa città durante la settimana. Dai. Dammi corpo. Dammi sigla. Questa è, sì, questa cosa è, vabbè. Ti piace la sigla? La faremo sempre. Faremo un post-it. Va bene. Beh. No, comunque bello. Cioè, comunque Sarajevo, cioè io quando sono stato, è stato veramente io ci voglio andare. Andiamoci. Si ha l'impressione veramente passeggiando nel centro, poi non vi dico anche le periferie sono interessanti, sono molto interessanti. Tutte sforacchiate dai proiettili. Tantissimi cimiteri nella città, proprio si vede, si arrampica tutto su delle colline. Se te guardi, c'è proprio questi panorami dove ci sono delle zone completamente bianche per le croci di marmo dei cimiteri. E in centro, appunto, è divisa esattamente in due: cioè divisa, ci sono due architetture, una da una parte e una dall'altra. Da una parte ti sembra di essere in Turchia, dall'altra parte ti sembra di essere in Austria. Cioè, questo sì, e una varietà di personalità e di persone, veramente passa dalla ragazza in minigonna alla ragazza col chador. E sul muro c'è scritto sigla. Sigla! Comunque. Rassegna eventi. In effetti erano faticaggi quelle volte. Allora, eccoci qua a parlare di ciò che succede in città. Allora, Da cosa partiamo? Partiamo da quelli più prossimi. Allora, mi confermate che il primo evento è di giovedì? Grazie, giovedì. Ragazzi. Allora, giovedì 14 dicembre dalle ore 18, iniziativa sulla resistenza nella foresta di Ambac. Bello, ragazzi, questi vivono sugli alberi. Ah sì? Eh sì, hanno costruito dei presidi, delle case sugli alberi, sì, nella foresta. Sì, contro l'abbattimento. Ah, sì. Fighissimo. Sì. E dice ora è periodo azzuto, fra l'altro, perché rischiano che gliele seghino. In Germania, ah, sì, in Germania sono autorizzate il taglio dell'albero è autorizzato da novembre a, insomma, i mesi più a febbraio, se non mi sbaglio. E quindi loro il resto dell'anno se ne stanno tranquilli, ma ora so cazzo. Pesissimo. Comunque lo trovate nell'occupazione di Viale Corsica, ore 18, giovedì 14. Iniziativa sulla resistenza alla foresta di Ambac, che vi racconterà tutto questo. Molto interessante. Mi sa che ci vuole. Poi, venerdì. Venerdì 15 dicembre invece, presentazione di Pinelli, La finestra è ancora aperta, organizzato dalla libreria Majakowski, alle 18 CPA. Exactly. Alle 18:30 c'è la presentazione appunto di questo libro con l'autore, che è Gabriele Fuga. E chi era sto Pinelli? Anarchico. Un anarchico. Anarchico Pinelli. No, l'anarchico morto il 15. Che per caso, virgolettato, non potete vederlo, è caduto dal commissariato a Milano. Esatto, no? Dice, si è buttato dalla finestra. Esatto. Balbettavo per dire che il 15 e 16 dicembre del 69, quindi la data non è a caso, ecco, volevo dire questo. Dalla questura di Milano, appunto. Tre giorni volano uomini, strage. Esattamente. Anche quindi, c'è un'altra presentazione venerdì 15. Sì, allo spazio Inchiostro. Sì. Di un libro, ora non ce l'ho sotto mano purtroppo, però sul caso Cucchi, sulla, vero, insomma, violenza delle forze dell'ordine. Sembra parte dalle 15 fino alle 18. Quindi perfetto, poi andate a Majakowski, vi fate due. Babando, pietà pazzesca. Bam, perfetto, orario c'è. Ci avete anche mezz'ora di pausa. Viva, caffè. Allora, passiamo a sabato 16 dicembre alle ore 15 in piazza San Jacopino. C'è il corteo antifascista, ragazzi, in memoria della quello strage vero di piazza Dalmazia. Quello vero. Sì, ragazzi. Quello vero. Perché sabato c'è stato quello. Ah, quello, è vero. È stata una novella. Quello, bravi, avete fatto bene a non andarci. Erano pochi. Vabbè, se siete andati meglio. Ecco, se siete andati meglio, sì, vabbè. Basta, insomma, venite anche. Basta che venite anche il 16. Sabato. Il 16. Esatto, in memoria del 13 dicembre 2011, sì, quando Gianluca Casseri sparò in piazza Dalmazia. È tutto uccidendo... impresso nelle nostre menti, direi. Esatto, io ero a Careggi. Anch'io ero a Careggi. Cosa, sì. Cioè, ti rendi conto, era come una cosa come le Torri Gemelle, che ti dici, quando parli delle Torri Gemelle, ti dici, io ero in quel momento, ecco. Cosa che io non mi ricordo, fra l'altro. Torri Gemelle, io ero in un bar dell'Isola d'Elba. Vedi, io ero sulla spiaggia. Io ero a giocare nel bosco. Insomma, comunque Casseri ci ha lasciato. Quindi no, manifestazione molto importante in memoria appunto della strage di Piazza Dalmazia, quindi contro ogni fascismo, nuova destra e quant'altro. Quindi la presenza è importante. Molto molto importante. Sabato 16 invece dalla mattina. Allora, sabato 16 un delirio. Mi dovevi aiutare, ragazzi, per favore. Anche questo era sabato 16, no? Sì, esatto. Sì, sì, sì, sabato 16 il pomeriggio, però. Sì, volevo dire il pomeriggio, scusate. Esatto. Dalla mattina, se non sapete cosa fare, cosa c'è? Un evento, mi sembra, in polveriera, tipo. Allora, c'è Di Mano in Mano, che è il mercatino dell'usato. Sì, in polveriera, esattamente. Non solo dell'usato, non solo dell'usato, non dell'usato, solo del baratto. Ah, e del riciclo. È giusto, è giustissimo. Perché mancano due componenti. Puoi anche barattare, non devi pagare per forza. Molto importante, direi, da sapere. Magari vai. Ma no, scherzi, ragazzi, guarnito tutte le tue cose. Vuoi. Io ci ho trovato una giacca che tutti quando mi guardano mi dicono: ah, sembri uscita da un film. C'è una giacca che l'ho pagata tipo 3 euro. Vi dico solo questo. Di velluto, buona, ottima, veramente calduccia. Cioè. Perfetto. Non è che se si baratta vuol dire che so cenci. Okay, no, no, no, che c'entra. Col cazzo. Quindi di mano in mano, la mattina lo potete trovare, artigianato, la polveriera Spazio Comune, via Santa Reparata 12. Alle ore 17.30, invece, dentro la polveriera, si svolgerà la presentazione del giornale Umanità Nova, un settimanale anarchico dalla clandestinità a internet. E chi partecipa? Partecipano Marco Rossi, che è il coautore di Cronache Anarchiche, e Pepsi, collaboratore del giornale. E, vabbè, poi c'è la pericena, la Music Sees, vero? Chi c'è? The Music Sees? Non so. Non è dato saperlo a noi nella nostra piccola rassegna eventi. Però, sempre sabato 16, non in polveriera. Bensì, attenzione, questo è l'evento. All'Emerson. Esattamente. Cioè, per festeggiare un anno di bellissime dirette e meravigliosi podcast, radio più wombata di Firenze. Viva, ragazzi! È il compleanno, E per finanziare i progetti futuri. Esatto. Insomma, è una serata dedicata a noi wombata. E vai, alla radio. E vai. Dunque, vi aspettiamo, la radio è bella. Vi aspettiamo numerosi al nostro banchino, e festeggiamo insieme un anno di trasmissioni, praticamente, più o meno, giorno più, giorno meno. Comunque, sì, idealmente, ci siamo, un anno, ragazzi, che trasmettiamo, quindi... vogliamo festeggiare insieme a voi all'interno dell'Emerson. Esatto. E festeggiamo anche insieme a Immi Roots, che compie 5 anni. Un po' più vecchio. Sì. Matusa. E infatti la serata sarà conference con Immi Roots Sound System e Disco Rebel Foundation, fit The Bass Sound System da Roma. Pare un super ospite dall'Irlanda. Okay. Irish. No, sì. Irlanda del Nord, scusate. Ecco, attenzione. Irish. Oh, slash Zimbabwe. Sì, è Zimbabwe. Del Nord. No. Bene, che sarebbe il nome è Ranking Fox. O sbaglio? È lui, esatto. L'ospite speciale. Allora, quindi, riassumendo, sabato 16 dicembre, la mattina, di mano in mano, in polveriera, il mercato. Dalla mattina. La mattina, la sera, cosa ascolti? Dalla mattina, se siamo stanchi. È tardi, la mattina, è tardi, sì. Di mano in mano, mercatino dell'usato, il baratto del riuso. Alle 17.30 invece, nella sala interna, la presentazione di il nuovo numero di Umanità Nova. Invece la sera all'Emerson, Radio Wombat festeggia l'anno, il compleanno, insieme a Amy Roots e a molto altro. Se vi fa fatica andare all'Emerson, comunque potete rimanere in polveriera, che comunque c'è musica da bere o da andare mangiare. Al corteo. O andare al corteo. Corteo è presto, alle 3. Corteo alle 3, sì, sì. Sì, agile, ce l'ha fatta. Incasinato, è un sabato incasinato. Ve l'abbiamo incasinato. Cioè, un sacco di roba, cioè, non state in casa comunque. Via, fuori. È molto semplice. Bene, allora, ci volete mandare un ultimo pezzaccio prima di chiudere definitivamente? Direi di no. Direi no? Di no, perfetto. È troppo tardi, non si sa. Allora, sì, signori, siete voi che comandate, quindi ci sentiamo lunedì prossimo alle 16.30, dai, puntuali, sì, o non. Puntuali al modo nostro. Qui su Radio Wombat, fuoco alle polveri. Grazie Bracco, grazie Kakaf, grazie Grande Lago, grazie a Mario e a tutti quelli che hanno parlato noi. Grazie a Hope, come si pronuncia? Hopner. No, questo non si pronuncia così, però noi diciamo così, diciamo. Vabbè, io tanto non sbaglio di sicuro. Fate la pesca te. Niente, quindi Wombat. Wombat. Wombat. Fuoco alle polveri. Go Hal and Paul Berry. Radio Bomba. This is Radio Bomba. Sei contento di questo sciopero? Ah, faccio.